Allora, finiamo sulla storia che rischia di essere perduta per spostarci a Montesagro e andare a sentire come sta svolgendo il corteo per Valerio Verbano, il 38esimo corteo per l'omicidio, il 38esimo anno dall'omicidio di Valerio Verbano. Ciao. Ciao. Ciao a tutti e a tutte. Allora, ciao. Un saluto da questo corteo bellissimo che nonostante il tempaccio quest'anno. Nonostante il tempaccio ci sono più di 2000 persone. Andiamo, non ci stanno le compagne sue. Pronto? Sì, sì. Allora, dici innanzitutto dove siete, Siamo quasi per tornare su Viale Ionio, quasi alla fine della manifestazione. Nonostante la pioggia battente, un numero enorme di antifascisti e antifasciste sono in piazza, la via è tutta piena, e ci sono circa 2-3 mila persone che in questo momento sono in corteo per ricordare Valerio Verbano, e in più non solo per Valerio ma anche per tutto quello che sta succedendo in questi giorni, da Macerata passando per Piacenza fino a Palermo. Questo corteo ha detto una voce chiara, un abbraccio caloroso ai compagni di Palermo. Ogni azione contro i nazisti e fascisti è un'azione partigiana, senza se e senza ma. Senti, va bene, noi ovviamente ci uniamo insomma a quel corteo come se stessimo là anche noi, e ringraziamo insomma i compagni anche di Montesagro che ogni anno organizzano questo corteo, tante e tante che hanno partecipato oggi visto anche il tempo, e non so se avevi altro da dire, se no ci aggiorniamo. Il corteo sta per tornare, oggi sono anche celebrati i 10 anni della palestra popolare Valerio Verbano. 10 anni fa fu occupata insieme a Carla, che purtroppo oggi non c'è più, ed è stato un bel momento festeggiarli con tutta questa gente. Quindi insomma la manifestazione oggi è veramente ricca di significati, siamo anche molto stanchi e molto bagnati, quindi grazie. Pronto? Sì, sì, ci sono. Quindi stiamo ancora camminando, però insomma ecco, vi mando un abbraccio a tutte e tutte. Oggi gli antifascisti hanno invaso Tupello e Montesagro un'altra volta in maniera veramente grandiosa. Ce n'è molto bisogno. Ed è buono, so che insomma si continua comunque a scendere in piazza e a tenere e a occupare le strade, soprattutto della capitale. Grazie. Sì, assolutamente, grazie a voi, un abbraccio a tutte e tutte. Ciao. Ciao.